2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. La nostra sigla ci introduce in una nuova puntata di 2024 ed ecco a voi quella del 26 ottobre 2013. Come sempre vi ricordo le coordinate per raggiungerci. Sono sempre molti i nostri nuovi ascoltatori, quindi non tutti conoscono il nostro indirizzo di posta elettronica. 2024, scritto in cifra, quindi 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Twitter, su Facebook, quindi potete utilizzare i canali che preferite per comunicare con noi. Abbiamo molte notizie da raccontarvi e molti approfondimenti in questa puntata. Allora, iniziamo subito con alcune notizie in breve. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda la stampa 3D che, lo sapete, solo agli inizi, ci sono forse troppe aspettative su questo settore. Tuttavia, nonostante ciò, molti sono gli investimenti in tutto il mondo e anche HP, che sicuramente è il leader mondiale della stampa classica, tradizionale, ha annunciato che entro la metà del prossimo anno, quindi molto presto, lancerà sul mercato una stampante 3D di qualità a prezzo basso e basata su una nuova tecnologia che dovrebbe ridurre i tempi di stampa. Secondo l'amministratore delegato di HP, Meg Whitman, ci vorranno però almeno 3 anni perché queste stampanti diventino prodotti di massa. E forse probabilmente saranno più di 3 anni. Wikipedia ha bloccato circa 250 account responsabili di avere creato artificialmente o manipolato voci sull'enciclopedia online per ottenerne benefici. In molti casi si tratta di account dai quali agenzie di pubbliche relazioni online creano voci dell'enciclopedia, quindi su Wikipedia, per i loro clienti, oppure modificano a loro favore pagine già esistenti per promuovere società o prodotti, o per mettere in buona luce personaggi sui quali invece spesso si leggono verità scomode su Wikipedia. Naturalmente queste pratiche vanno contro le linee guida di Wikipedia. Ricordiamo che Wikipedia è il sesto sito più visitato al mondo. Un'altra notizia che riguarda Wikipedia: in Kenya, assieme all'operatore mobile Airtel, ha lanciato Wikipedia Zero, un servizio gratuito per ricevere via SMS le voci dell'enciclopedia. Un servizio dedicato a chi non ha internet ma solo un normale telefono cellulare. Questo è un test che durerà 3 mesi. Allora, vivere in provincia è bello, bellissimo, ma naturalmente vivere in città offre una serie di vantaggi. Potremmo dire vivere in alcune grandi città anglosassoni. Allora, nel settore delle vendite a distanza, cioè le vendite online, le più grandi aziende del mondo stanno cercando di velocizzare le consegne. Lo sta facendo Amazon, ma lo stanno facendo molte aziende anche locali che si occupano di consegne e di vendite online. eBay offre la consegna entro un'ora se il venditore e il compratore abitano nella stessa zona, già a San Francisco e a New York, e estenderà il servizio in altre 20 città entro il prossimo anno e anche a Londra nei prossimi mesi, acquistando una startup che si occupa proprio di questo, che si chiama Shuttle. Telecom Italia ha lanciato Cubo Giochi, un servizio disponibile per gli utenti TIM che hanno uno smartphone Android, che potranno comprare a prezzo scontato circa 1500 giochi per il proprio smartphone. C'è anche una forma di abbonamento flat, cioè si paga un tot e si scarica tutto quello che si vuole, ma soprattutto su rete 3G non ci sono costi di connessione se si scaricano quei giochi, alla faccia della network neutrality. Ma sicuramente questa è una tendenza interessante nel settore. Ultima notizia, pochi secondi per ricordarvi che dopo un ritardo di un paio di settimane, BBM, quindi il BlackBerry Messenger, è stato lanciato in tutto il mondo sia per utenti Android e iPhone, quindi si svincola dalla piattaforma BlackBerry e potrà essere utilizzato anche dagli altri utenti. Alcuni nostri ascoltatori ci hanno sollecitato, non solo nelle ultime settimane, diciamo, sul tema del controllo globale messo in piedi dalla NSA, dalla National Security Agency e da altre strutture americane. un controllo globale, diciamo, una serie di rivelazioni alle quali mese dopo mese si aggiungono altri dettagli. Allora, tutto nasce dalle rivelazioni di Edward Snowden, che sta molto poco simpatico alle autorità degli Stati Uniti. Ricordiamo che Edward Snowden lavorava presso i servizi segreti americani e si trova attualmente in Russia, vive nascosto, e ci credo, e passa comunque ancora molte informazioni ad alcuni giornalisti. Direi che il canale privilegiato ce lo ha con il Guardian, quindi se sapete leggere l'inglese, sicuramente quella è una buona fonte di informazione. Poi la stampa internazionale riprende quelle informazioni. Abbiamo parlato più volte di questo tema già da questa estate, quando sono stati rivelati i primi dettagli. L'aspetto politico, direi che nelle ultime settimane sta diventando più importante, quello di diplomatico politico rispetto a quello tecnologico, anche se direi che è molto probabile che tutti i grandi paesi sapessero tutto ciò, tutto quello che stava succedendo, e solo ora, visto che le informazioni sono diventate di pubblico dominio, fanno quelli che si sorprendono, gridano allo scandalo. Molti dicono, e io sono di questo parere, che presto se ne parlerà molto meno, si faranno magari accordi di facciata, accordi ai quali magari non verrà dato alcun seguito. Al di là dell'aspetto diplomatico-politico, c'è sicuramente un aspetto tecnologico interessante di cui abbiamo parlato, e visto che ce lo chiedete in molti, magari torneremo ad approfondire. Comunque, sostanzialmente, questo sistema di controllo si basa su una potenza di software, una potenza di calcolo incredibile. Ricordate quando parliamo di supercomputer e diciamo che oramai avere supercomputer con potenze di calcolo incredibili ed elevatissime fa parte della potenza di una nazione, quindi ha un aspetto strategico molto importante. Beh, tutto questo, queste macchine, queste fabbriche di intelligenza stanno dietro anche a questo controllo che sta facendo, che fa da tempo la National Security Agency. Allora, la cosa migliore per avere le informazioni, per poterle poi analizzare, perché la prima cosa è ottenere le informazioni, è mettere macchine che registrino il traffico nelle centrali di distribuzione dei cavi internazionali da cui transita buona parte del traffico internet, o anche naturalmente nelle centrali telefoniche. E uno a questo punto dice: ma come si fa? Stiamo parlando di servizi segreti, stiamo parlando di paesi che hanno una capacità di persuasione molto ampia, gli Stati Uniti, non di tanti paesi. Naturalmente va detto che dietro a tutto ciò non ci sono persone che ascoltano, come succede quando magari un magistrato italiano ordina l'intercettazione telefonica. In questo caso stiamo parlando di un controllo massivo di milioni di telefonate, milioni di messaggi che vengono scambiati su internet. Ci sono software molto potenti che capiscono che cosa viene detto, ad esempio attraverso parole chiave, utilizzando tecnologie semantiche, o che capiscono chi sta parlando, quindi intercettano il timbro vocale di una persona che è stata messa, ad esempio, nella lista di soggetti da tenere sotto controllo. A quel punto scattano tutta una serie di meccanismi. Dicevo, torneremo a parlare di questo argomento, un argomento che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, anche di questo parliamo ormai da molto tempo, che è necessario usare la crittografia per limitare il più possibile le intercettazioni. La si può utilizzare per le nostre telefonate, ci sono software più o meno sofisticati, alcuni gratuiti, molto spesso a pagamento, ma se vogliamo mettere sotto chiave le comunicazioni, magari è giusto pagare qualche cosa, ma tutto ciò non tanto per difendersi dai servizi segreti. Lo dico spesso, le aziende dovrebbero utilizzare sistemi di protezione di dati anche basati sulla crittografia per difendersi dallo spionaggio industriale che viene fatto anche dalle nazioni. E noi parliamo molto di quello che sta facendo la National Security Agency, e io mi stupirei che non lo facesse, visto che si chiamano servizi segreti. Ne parliamo perché Edward Snowden ha cominciato a raccontare tutto quello che avviene. A parte che bisognerebbe, non abbiamo diciamo una conferma, Snowden è una fonte, bisognerebbe avere una conferma che per il momento non è possibile ottenere, ma dicevo dobbiamo preoccuparci non solo di questo ma, e forse di più, di tutto quello che stanno facendo altre nazioni, la Cina, la Russia, il Giappone, Israele. Quindi il problema è un problema globale che va affrontato direi a livello molto locale, visto che gli stati, soprattutto in Europa, faticano a proteggere ad esempio le aziende, la proprietà intellettuale delle aziende. Adesso cambiamo argomento. Questa settimana sia Nokia che Apple hanno annunciato alcune novità che vedremo presto sul mercato. Nokia ha presentato 6 nuovi terminali, in particolare 2 nuovi smartphone Lumia con Windows Phone, il 1520 e il 1320, e la cosa che spicca sicuramente agli occhi, ma è sicuramente un particolare, una caratteristica molto interessante di questi nuovi terminali, è il display da 6 pollici, come ha detto martedì Stephen Hillop, che è l'uomo che ha guidato Nokia, che adesso sta guidando l'integrazione di Nokia in Microsoft. Two new Lumia devices with larger screens. Two new ways to capture the world around you. And many new experiences on the Lumia 1520 and Lumia 1320. Gli smartphone con grande display vengono definiti phablet, che è un mix tra phone, quindi tra telefono, e tablet. E quella di avere display sempre più grandi per i telefoni top di gamma soprattutto è una tendenza che stiamo vedendo in accelerazione da diciamo un paio di anni. Ha iniziato Samsung con il Galaxy Note, molto spesso si definisce questo come il primo phablet, esattamente 2 anni fa, ottobre 2011, ma direi che nell'ultimo anno c'è stata un'accelerazione verso schermi sempre più ampi, più rapida. Direi che a Barcellona al Mobile Congress, quindi dove vediamo i prodotti poi dell'anno a febbraio, abbiamo visto un numero molto più elevato rispetto all'anno precedente di schermi molto molto grandi. Per quale motivo gli schermi diventano sempre più grandi e quindi questi terminali si allargano, diventando anche un po' complicati da magari infilarsi in tasca, visto che il telefono è uno strumento che ci portiamo sempre con noi? Ne abbiamo parlato, l'abbiamo chiesto, abbiamo chiesto perché c'è questo aumento della dimensione, a Joe Harlow, che è responsabile della divisione Smart Devices di Nokia. Penso che siano due le cose che abbiano veramente spinto l'aumento delle dimensioni dello schermo. Una è la crescente adozione di reti LTE in molti mercati. L'LTE mette a disposizione banda larga in mobilità, il che rende effettivamente possibile lo streaming video, sia che tu stia guardando un video dalla rete, sia che tu lo stia caricando sul tuo servizio cloud. In molti paesi la banda mobile LTE è più veloce della rete a banda larga fissa presente nelle abitazioni, quindi è la tempesta perfetta tra contenuti video, velocità di connessione e dimensioni del display a rendere l'esperienza la migliore possibile. L'aumento delle dimensioni dei display penso rifletta inoltre come viviamo la nostra vita. Lavoriamo e consumiamo diversi contenuti allo stesso tempo. Siamo diventati multitasking. E quando uno è multitasking, avere un display più grande migliora la parte della tua vita dedicata al lavoro e, come dicevo, rende il consumo dei media più divertente. Non ci sono solo questi due phablet, possiamo andare oltre, ha detto Stephen Hillop, ma ne parliamo tra poco a 2024 su Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco parleremo anche di Startup 2024, adesso stiamo parlando delle novità che sono state presentate in settimana sia da Nokia che da Apple. Abbiamo parlato di due phablet, le novità che sono arrivate nella famiglia Lumia, quindi smartphone con sistema operativo Windows Phone. Stephen Hillop durante la presentazione ha detto: ma possiamo andare oltre, possiamo far sì che gli schermi diventino ancora più grandi. We can go even larger, and we are. The award-winning design the breakthrough imaging innovation and the new experiences that we have brought to you with Lumia smartphones, we are bringing to the tablet market. Infatti Nokia ha presentato, così come largamente anticipato, il primo tablet della sua storia, il 2520. Ladies and gentlemen, the Lumia 2520. Un tablet da 10 pollici con Windows RT che dovrebbe arrivare sul mercato anche in Italia, anche se noi non siamo tra i primi paesi dove verrà lanciato questo prodotto, nel primo trimestre del 2014. Allora, è da molto tempo che si vocifera di un tablet pronto nei laboratori di Nokia, ed ora c'è chi si domanda come si inserisce questo prodotto all'interno dell'offerta di Microsoft e in generale dei tablet con Windows, sia Windows RT che 8.1, quindi Surface 2 e il Surface Pro 2 di Microsoft, visto che Nokia verrà integrata in Microsoft. Anche di questo abbiamo chiesto a Joe Harlow. I tablet sul mercato con sistema Windows sono tablet Wi-Fi e questo limita la possibilità di portare il tablet con sé e di usarlo ovunque. Noi però siamo una società che si occupa di mobilità e concepiamo un terminale proprio da questa prospettiva. Questa è la parte del mercato che pensiamo di poter servire. Questa è la voce di Joe Harlow, responsabile degli smart devices all'interno di Nokia, che entrerà in Microsoft nel momento dell'integrazione tra Nokia e di Nokia in Microsoft e dovrebbe continuare a guidare lo sviluppo della divisione smartphone. Che cosa ne pensa di questo annuncio Carolina Milanesi? Allora ci colleghiamo con Carolina Milanesi, uno dei principali analisti di Gartner, collegata con noi dalla Silicon Valley. Allora, due punti. Uno, che ovviamente Nokia ha iniziato a fare questo prodotto prima che si sapesse dell'acquisizione, penso anche internamente, perché è un prodotto che, appunto, come dicevi tu, è mesi e mesi che se ne parla e poteva anche uscire molto prima della data che effettivamente abbiamo avuto. Quindi Nokia come azienda doveva fare un tablet. Non puoi continuare in questo mercato a fare soltanto il telefono, devi avere questa companionship, questo duo di telefono più tablet. Diciamo la critica più grande che tutti fanno è ART invece che essere full Windows 8, no? Ma per Nokia non c'era una scelta, era una scelta forzata fare RT, dove possono utilizzare i loro supplier, quindi la relazione che hanno con Qualcomm, non soltanto a livello di semiconduttore, ma anche la relazione che hanno da un punto di vista di IP, dove Nokia ha un cross licensing con Qualcomm, dove hanno un prezzo preferenziale per la parte di LTE, per la parte cellulare, e quindi da un punto di vista di prezzo hanno un vantaggio. E poi per sfruttare il loro canale migliore, che è quello degli operatori mobili. Adesso, se prendiamo questo prodotto e lo portiamo all'interno di Microsoft, secondo me c'è l'opportunità per Microsoft di togliersi da quell'impiccio che si sono creati, che è la confusione tra Surface 2, Surface RT, che è sempre la stessa cosa ma la prima generazione, e poi Surface Pro. Quindi io, se fossi in Microsoft, terrei Surface Pro come la parte alta del mercato, come la mia brand di lusso, diciamo, e per la parte dell'utente che vuole prima di tutto la produttività. E poi prenderei il design della Nokia del 2520, lo porterei ad un prezzo inferiore e lo userei per spingermi veramente nella parte del consumatore, dove non è Office tanto che vende, ma è Skype, ma è SkyDrive, ma è Xbox. Un giudizio sui phablet, questi smartphone da 6 pollici, venderanno, andranno bene, ce n'era bisogno, necessità? Guarda, io sono sempre stata molto scettica sul phablet, perché non so se effettivamente mi serve un telefono così grande, però la realtà è che nel giro di 6-8 mesi avremo difficoltà a trovare qualcosa che sia molto più piccolo. Se hai visto un pochino alcuni degli annunci che hanno fatto venditori tipo HTC, adesso 4.3 pollici diventa mini, che invece 2 anni fa era il grande, no? Quindi diciamo che è tutto relativo quando guardiamo alla grandezza dei prodotti, però secondo me dove ha senso, specialmente nell'ambito Microsoft, è dove vediamo questi ibridi, tablet, notebook ibridi che arrivano sul mercato e puoi pensare a un discorso che quello diventa il tuo notebook e il phablet diventa quello che ti porti in tasca e quindi diventa un po' la parte di produttività mobile. E invece l'ibrido è effettivamente quando ti siedi a un tavolo, che sia il tavolo dell'ufficio, il tavolo dell'albergo o dell'aeroporto, è un'altra storia. Adesso ci spostiamo da Abu Dhabi, dove Nokia ha deciso di organizzare quest'anno il Nokia World per la presentazione di questa settimana. Stesso giorno, stessa data, 22 ottobre. Ci spostiamo però diciamo, a casa di Carolina Milanese, quindi andiamo in California, dove Apple nello stesso giorno ha presentato alcune novità che riguardano gli iPad di nuova generazione che arriveranno molto presto, dalla prossima settimana, quindi dal 1° di novembre in molti paesi del mondo, compresa l'Italia. Alcuni hanno detto che la vera novità riguarda il software, perché Apple ha deciso che inserirà sui nuovi terminali sia i computer con iOS, con OS X, quindi sui computer con OS X, quindi il sistema operativo OS X, e anche su tutti i terminali iOS, inserirà gratuitamente la suite sia iLife che iWork, quindi una serie di software per la produttività incredibili e, a detta di molti, ottimi software. Che cosa ne pensate di questa novità? Sì, secondo me il software diventa sempre di più la parte cruciale, no? La parte che differenzia te come venditore da un altro venditore. E per Apple ovviamente il software non è mai stato diciamo una grossa fonte di revenue, di soldi. E sta diventando sempre di più invece un'addizione, un'aggiunta all'hardware che cambia il livello di engagement dell'utente, quindi io ho un device, ho un tablet come l'iPad che mi piace non solo perché esteticamente è bello, non solo perché da un punto di vista di feature set è quello che voglio, ma perché ha un software che rende più piacevole la mia esperienza che un po' dà vita, no, al device che hai. E quindi Apple usa il software come OS. Come OS, iOS 7 e anche dal punto di vista di Mac, per aggiungere valore all'hardware, ma anche la suite di prodotti come iWork. Esatto, a proposito di iWork, possiamo vedere in questo caso una rincorsa di Apple nei confronti degli altri, cioè un allineamento di Apple nei confronti degli altri, perché nell'ecosistema Android c'è tutta la suite di lavoro di Google e nel sistema Windows c'è Office di fatto sui Surface e anche sul nuovo tablet di Nokia. Quindi di fatto, per non perdere qualche punto, Apple si è dovuta quasi quasi adeguare. Sì, direi che diciamo, la sottigliezza magari è anche un po' nel fatto che magari stavano aspettando che ancora per Office, per iPad, no? E poi alla fine abbiamo visto che hanno dato su iOS 7 già iWork per i nuovi devices, quindi sia per l'iPhone che adesso per i nuovi iPad, perché se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Stiamo ancora aspettando Office per iPad e quindi Apple sta cercando di salvaguardare quella posizione che hanno nell'enterprise con gli utenti come me, come te, che vogliono magari portare l'iPad in ufficio e cercare di dargli una ragione in più per tenersi l'iPad vicino e quindi dargli la possibilità tramite la suite sul device, ma anche la parte di cloud, perché adesso non è soltanto un discorso che io posso usarlo su iPad, ma anche perché tramite iWork per iCloud che posso usarlo su un PC e posso collaborare anche con gente che non usa un Mac o un iPad, ma che usa un PC. Con questi annunci, guardando al mercato oggi, voi ritenete che Apple in questo mercato abbia ancora un grande vantaggio rispetto agli altri? Perché se guardiamo al mercato dei tablet, vediamo una Apple che è ancora in vantaggio rispetto agli altri, mentre nell'ecosistema, insomma, un mercato completamente diverso rispetto agli smartphone. Sì, diciamo che dobbiamo guardare al mercato dei tablet in due modi, nel senso che c'è un mercato totale dove Apple ha ancora la metà del mercato e l'altra metà è di Android, ma poi guardi a come questa metà di Android si suddivide, che è molto nella parte bassa del mercato, non nella parte alta. È per questo che secondo me al lancio era ho avuto qualcuno che mi ha chiesto, ma pensavo che il nemico fosse Android, invece dal lancio sembra che il nemico sia diventato Microsoft. E penso che effettivamente incominciamo a vedere due nemici diversi. Il nemico nella parte dei telefoni, sicuramente Android, il nemico nella parte dei tablet, Microsoft, specialmente nella parte dell'enterprise, dove questa idea di questi nuovi tablet ibridi che Tim Cook ne ha parlato in modo della concorrenza confusa, no? In questi design che vediamo dell'hardware, ma che in realtà da un punto di vista di business, un IT manager può vedere come un'alternativa all'iPad e a un notebook. Quindi ti do un device che in realtà ha due funzioni. Bene, grazie a Carolina Milanesi, collegata con noi dalla Silicon Valley. Ricordiamo che Carolina Milanesi è uno dei principali analisti nel mondo per Gartner e si occupa proprio di questo mercato, potremmo definire degli smart devices, ma in generale di elettronica di consumo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra pochi minuti. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Una volta alla settimana, il sabato dalle 15 alle 16, la domenica alla sera tra le 23 e le 24. Ma naturalmente ci trovate e sono moltissimi i nostri ascoltatori che ci ascoltano in podcast, quindi vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente a questo servizio e quindi scaricare ogni settimana la nostra puntata. Poi ci sono molti che ci ascoltano anche in streaming. E devo dire che grazie all'aumento della capacità delle reti internet anche in Italia, anche se forse siamo più lenti rispetto ad altre parti d'Europa, lo streaming diventa sempre più popolare, non solo per ascoltare 2024. Adesso parliamo di startup, di nuove aziende e devo dire che c'è un fenomeno che stiamo osservando, ma del resto anche a 2024 invitiamo abbastanza spesso, potremmo farlo anche un po' più spesso, ma non è facilissimo, perché va fatta anche un minimo di valutazione delle persone che poi vengono invitate davanti al microfono. Dicevo, comunque abbastanza spesso invitiamo giovani startup o nascenti startup che ci raccontano la loro idea, la loro tecnologia. E questo serve anche per descrivere alcuni mega trend della tecnologia e molte di queste startup si inseriscono all'interno di questi campi che si stanno espandendo. Allora, a proposito di startup, ce ne sono state molte in mostra anche durante SMAU che si è svolto questa settimana e Italia Startup, assieme agli osservatori del Politecnico di Milano, hanno presentato una ricerca proprio sulle startup. Quante sono quelle che vengono finanziate? Quanti soldi vengono investiti in queste startup? C'è stato un incontro, sicuramente un incontro molto interessante. Non c'erano solo esperti di tecnologia. Quando parliamo di startup, naturalmente non parliamo solo di tecnologia, perché uno può lanciare un'azienda anche in altri settori, ma sicuramente il settore tecnologico è molto presente. La stragrande maggioranza delle nuove aziende nascono nel settore ICT. Allora, dicevo, non c'erano solo esperti di tecnologia, ma c'erano anche, e questo è un fenomeno che osserviamo da qualche anno, molte persone che si occupano di finanza, di investimenti, perché il settore, lo sviluppo delle start-up sta diventando sempre più interessante anche a chi si occupa di investimenti e di finanza. Allora, dicevo, Italia Startup e gli osservatori del Politecnico di Milano hanno presentato una ricerca sulle startup. Ne abbiamo parlato con il professor Andrea Rangone, che è responsabile degli osservatori ICT e Management del Politecnico di Milano. abbiamo fatto due cose per adesso, per quest'anno. Da una parte siamo andati proprio a censire tutti gli attori principali del cosiddetto startup ecosystem italiano, quindi dell'ecosistema delle startup. Quindi siamo proprio andati a contare i soggetti principali a livello di investitori, incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, startup competition, quindi competizioni specifiche per imprenditori. Ecco, ci sembrava importante fare questa fotografia, ed è la prima in Italia, proprio perché siamo convinti che solo se tutti questi attori iniziano a collaborare in una maniera virtuosa si riesce realmente a spingere questo paese e a renderlo sempre più amichevole, tra virgolette, nei confronti delle startup e magari anche a generare crescita economica. Questa è la prima cosa che abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto una seconda cosa. Siamo andati a valutare, a quantificare gli investimenti totali fatti in startup high tech, quindi ad elevata tecnologia, in Italia. Abbiamo dato il dato del 2012, abbiamo anticipato anche un preconsuntivo 2013. Che cosa viene fuori? Su entrambi gli anni stiamo parlando più o meno di 110 milioni di euro di investimenti, una cifra che in assoluto non significa tanto. Purtroppo, se la paragoniamo rispetto a lo stesso tipo di indicatore negli altri paesi europei, soprattutto dei paesi europei avanzati, è ancora molto poco. Quindi 110 milioni di euro investiti in un anno in Italia in imprese high tech sono assolutamente troppo pochi. È una cifra ridicola, diciamo così. Adesso, ridicola e forte, ma tutto sommato, se prendo soprattutto i migliori, sì, ecco. Cioè negli altri paesi, appunto i migliori paesi investono 5, quanto? 7 volte tanto, fino ad arrivare a 10 volte tanto. Stiamo parlando di paesi europei, non degli Stati Uniti. Paesi europei, lasciamo stare gli Stati Uniti che sono appunto un altro continente, un altro pianeta, direi. Ecco, no, stiamo parlando di paesi come europei, come la Francia, la Germania, i paesi scandinavi, no, che sono paurosamente più avanti. Questo perché noi praticamente dopo il boom della new economy, in cui ci aveva fatto un po' vivere, ecco, l'ebbrezza del concetto di startup, no, high tech innovativa, noi abbiamo quasi per un decennio trascurato, ci siamo completamente dimenticati del fenomeno imprenditoriale tecnologico high tech, bollandolo con quello di bolla, ecco, di flop, di sola. Adesso invece, da un paio di anni, qualcosa sta succedendo, e questo però dobbiamo dirlo, per non essere troppo negativi, no? Le cifre purtroppo sono quelle che sono, parla da sole, però qualcosa sta attivandosi. E cos'è questo qualcosa? È questo circolo virtuoso, perché poi se andiamo a studiare anche la storia della Francia e della Germania, che 10-12 anni fa non erano tanto più avanti di noi, anzi, no? Ecco, cos'è che si è attivato che da noi non si è attivato? È questo circolo virtuoso in cui alla fine, e ritorno al concetto di ecosistema, no? In cui a livello politico è stato capito che le startup, le nuove imprese sono importanti, e quindi se poi la politica pone l'attenzione, anche i media pongono l'attenzione, e se i media pongono l'attenzione allora è anche più facile dare dei modelli giusti agli studenti e non farli tutti diventare manager o dottori, ma magari anche fargli capire che c'è questo percorso professionale che si chiama imprenditore, che anche e poi l'università allora capiscono e fanno meglio il loro lavoro. Un circolo virtuoso, che comunque sta accadendo, che finalmente sta accadendo, ecco la cosa positiva dei 100 milioni da un paio di anni, che finalmente sta accadendo, no? Quante sono le startup che avete censito? Probabilmente ce ne sono molte di più. Sì. Voi avete, sì, diciamo, vi siete dedicati a quelle high tech. Esattamente, quelle high tech, in particolare un po', diciamo, la punta dell'iceberg, se vuoi, cioè le startup high tech finanziate da un investitore strutturato. Quindi noi abbiamo censito, abbiamo analizzato 160 rotte, quindi quasi 170 startup nel biennio 2012-2013, che sono tutte quelle startup che hanno ricevuto fondi da investitori istituzionali. Quindi, se vuoi, un po', chiamiamola appunto la punta dell'iceberg, la Graham, sotto ce ne sono molte di più. Però queste sono riuscite a convincere investitori professionali istituzionali a dargli dei soldi. Però avete censite più di 1200. Poi, a fianco a questo numero, abbiamo anche censito tutte le cosiddette startup innovative, dove la parola innovativo è proprio coerente con l'attuale normativa, la normativa introdotta dal decreto sviluppo bis e poi successivamente integrata. Quindi queste 1200 rotte startup innovative soddisfano i requisiti della normativa e quindi sono registrate nell'apposita sessione del registro delle startup innovative per le imprese. Di startup e del sistema italiano delle startup abbiamo parlato anche con Federico Barilli, che è il segretario generale di Italia Startup. Noi non abbiamo il censimento del, come si dice, dell'universo delle startup. stimiamo che siano qualcosa che sta tra le 3.000 e le 5.000 entità, però sono numeri, in questo momento il Ministero ne sta fotografando circa 1.500, poi ci sono altri numeri che circolano. Diciamo però che al di là di questi macro numeri, il fenomeno è in grande crescita, in grande sviluppo, nel senso che sono tanti che ci stanno provando seriamente, che siano giovani che purtroppo non trovano lavoro, che siano molto spesso persone che escono dal mondo del lavoro, che si mettono in proprio, o, cosa interessante, il mix tra questi due fattori. Quindi l'idea giovane e innovativa con diciamo la capacità manageriale. Allora, queste realtà di tipo imprenditoriale molto spesso hanno, diciamo, facendo una debita selezione, perché è ovviamente necessario farla, ma secondo noi hanno della sostanza vera, o in termini di processo o in termini di prodotto, per cui possono essere quella che si dice, da, come dire, in tutti i convegni, una vera leva di innovazione. Quindi noi crediamo che siano soggetti credibili per aiutare lo sviluppo. E d'altra parte la dimostrazione di questo è data dal fatto che ci sono delle imprese consolidate che stanno sempre più guardando a questo fenomeno, perché, diciamo, anche i fornitori tradizionali di innovazione non sono sempre all'altezza della situazione. Quindi andare, ma questo per ammissione degli stessi CIO, cioè dei stessi, come si dice, Chief Information Officer, che ormai stanno ritagliando, oppure anche business unit di imprese che stanno ritagliando una parte dei budget per, diciamo, nuove applicazioni, nuovi modelli di sviluppo, e chi li produce? Le start-up. Ora, è chiaro che siamo ancora molto agli inizi del fenomeno, però la nostra sensazione è che la cosa ha assolutamente le gambe. Esistono i capitali o sono oggettivamente troppo pochi, insufficienti? Allora, a margine adesso diciamo, dell'evento che abbiamo appena organizzato, qualcuno dice: ma 110 milioni di euro sono una cifra troppo bassa. Allora, è vero, probabilmente, a parte che poi altri istituti dicono che i numeri sono ancora più bassi, quindi noi siamo stati, se vogliamo, anche più coraggiosi. Però la sostanza è che intanto questa non è la fotografia dell'universo, nel senso che poi bisognerebbe andare a sentire tutte le startup esistenti dove hanno ricevuto finanziamenti, e noi sappiamo che i famosi family and friends sono una componente non banale, ma soprattutto il focus vero su cui noi dobbiamo puntare è che il patrimonio che sta in capo alle industrie italiane, agli imprenditori italiani, è un patrimonio molto consistente, gestito dai famosi family offices. Allora è lì dove veramente bisogna andare a pescare, cioè gli investitori tradizionali, quelli istituzionali come li ha definiti Andrea Rangone, sono una realtà importante e più o meno cubano l'investimento che abbiamo detto. Ma se noi andiamo a prendere i patrimoni che sono di miliardi di euro all'interno delle famiglie e degli imprenditori italiani, secondo noi potremmo, se riusciamo a veramente a mettere i riflettori in modo serio su questo settore, muovere ben altri investimenti. Si discute spesso di startup anche facendo pressione verso la pubblica amministrazione, verso il governo, ma è così necessaria la pubblica amministrazione, così necessaria la politica? A me verrebbe da dire di no, nel senso che, a parte che questo è un paese che va avanti a prescindere, oddio, è sempre meno vero purtroppo, perché poi Però se noi guardiamo il sistema nel suo complesso, è evidente che la pubblica amministrazione, la burocrazia, il sistema bancario, cioè ci sono tanti elementi che frenano. Però poi è un paese che proprio sull'elemento dell'imprenditoria privata è capace di fare cose strabilianti. Quindi è chiaro che la normativa che è stata, e soprattutto i riflettori che sono stati messi su questo comparto, aiutano, è inutile negarlo. Però se io, come dire, vado a intervistare 10 start-upper e gli chiedo: ma voi, io credo che veramente uno o due di questi dicono: beh, grazie alla normativa io ho svoltato. Per cui secondo me aiuta, perché crea le condizioni, crea il contesto, mette i riflettori, ma se uno vuole farlo è a prescindere, cioè è perché crede che la sua impresa sia quella che può dare, come dire, la svolta al sistema, insomma. Ci sono le condizioni del dopo startup in Italia o poi spesso molte startup, se funzionano, vanno in altri paesi, tipicamente negli Stati Uniti? No, secondo me ci sono, perché quello che non si dice mai abbastanza è che in realtà il processo, il percorso che uno deve fare da quando ha l'idea di business a quando diventa impresa è un percorso che, diciamo, pur con tutte le lacune del caso, ma è abbastanza lineare, abbastanza chiaro, cioè i punti d'ingresso di solito stanno presso gli incubatori e gli acceleratori, oppure, come dicevo prima, l'amico, lo zio, il parente che ti dà in qualche modo i fondi per partire. Poi a quel punto ci sono i vari step, per cui gli stanziamenti successivi stanno in capo spesso ai business angel o a coloro che hanno la capacità di cominciare a mettere in campo, o gli stessi incubatori che magari mettono in campo i 100, 200, 300 mila euro. Poi a quel punto, quando l'azienda comincia ad avere un giro d'affari importante, comincia ad avere ricavi, comincia a crescere, avere delle prospettive, a quel punto entrano in campo i venture capitalist o i grandi investitori anche internazionali. Allora lì le cifre diventano 1, 2, 3, e alcuni casi italiani che noi non monitoriamo perché hanno preso i soldi in America sono 10, 15 milioni di euro. Quindi la strada e il percorso c'è. Quello che però va anche detto è che veramente uno ci prova, e cioè 100 ci provano e 2 ci riescono, perché anche questo va detto. Però l'elemento di selettività dentro al sistema c'è, e poi man mano che uno cresce gli strumenti per crescere ci sono, insomma. Chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, ve l'ho anticipato la settimana scorsa. Adesso vi propongo un'intervista che abbiamo realizzato con Enrico Gasperini, che è il presidente di AudiWeb. Beh, tra l'altro anche Gasperini si occupa di startup, ma in questo caso abbiamo parlato con lui di AudiWeb, che è il sistema italiano, diciamo quello ufficiale della internet di serie A. Poi c'è chi discute che bisognerebbe riuscire a raccogliere anche i dati dalla internet un po' più piccola, quella meno professionale, quella non dei giganti della rete internet. Abbiamo parlato di AudiWeb. Che cos'è AudiWeb, che cosa fa e quali sono le novità che ci aspettano? AudiWeb è una cosiddetta Joint Industry Committee, cioè una società fatta dalle parti rilevanti del mercato, domanda e offerta, che si è associata per creare uno standard di misurazione, e nel corso degli anni è diventato una cosiddetta currency, cioè la moneta in qualche modo di valutazione e di scambio nel mercato dell'advertising online. Quindi serve per misurare la internet italiana, quindi quante persone si collegano, e per dare un valore a questa industria per chi investe in pubblicità sostanzialmente? Esatto, serve per misurare ogni cosa avviene a livello digitale e sull'online. Lo faceva fino ad oggi solo su PC, da oggi anche su smartphone e su tablet. Misurare significa sapere di ogni sito, di ogni evento sulla rete, di ogni app, di ogni applicazione, quali sono le audience. Quali sono le audience e quindi a livello di utente chi sta facendo che cosa, per quanto tempo e con quali atti nel corso della giornata, nell'intero mese. Ovviamente poi questo chi vuol dire anche avere i dati sociodemografici delle persone e quindi poter calcolare i cosiddetti target pubblicitari, perché comunque una campagna pubblicitaria è sempre comunque indirizzata a un segmento di popolazione, non tutta, per esigenze di ottimizzazione. La seconda parte è più tecnica, perché questi dati finiscono effettivamente in un database. Oggi va molto di moda parlare di big data. Questo database viene usato poi da tutta l'industria, da tanti istituti di ricerca che su questo poi fondano la parte operativa della pianificazione pubblicitaria online. Detto in sintesi, ma anche in modo semplice, come fate a misurare quello che accade nella rete internet? Da sempre si dice che una cosa bella di internet è che si può misurare in modo facile. Come fate voi? E perché c'è bisogno di AudiWeb? In realtà non è affatto semplice, ci sono tantissimi dati, non è facile conciliarli fra di loro e quindi si ricorre a una metodologia piuttosto complessa, fatta di tanti pezzi, di tante azioni. Al cuore del sistema comunque c'è il campione, è un concetto molto vecchio, classico nel campo statistico, ma poi in fondo è l'unico modo user centric, della parte d'utente, per capire chi è che fa che cosa effettivamente e quali sono le sue intenzioni. Quindi è un campione statistico? Non si potrebbe evitare il campione e andare direttamente alla fonte del dato, visto che su internet si possono misurare le azioni degli utenti? Si fa anche questo, quindi oltre alla parte campionaria con i meter, insomma un modello che assomiglia tutto sommato a quello degli altri mezzi come la televisione, c'è anche una parte cosiddetta censuaria, cioè ci sono dati che arrivano direttamente laddove gli utenti fanno un'interazione, quindi ad esempio dai siti degli editori o dagli autori e gli sviluppatori. L'insieme di questi due osservabili, opportunamente ponderato, consente di fare una stima che si avvicina molto alla realtà. Però hai sempre bisogno comunque di entrambe le componenti. Si chiamano sistemi ibridi e in tutto il mondo, non solo in Italia, si usano sistemi ibridi fra le misurazioni su internet. Facciamo un esempio di un piccolo editore che ha un sito internet e sta pensando, diciamo così, ad entrare nel sistema AudiWeb. Per quale motivo uno dovrebbe entrare in un sistema del genere quando può autonomamente misurare la sua audience? Perché può misurare quanti sono i visitatori, quante pagine vengono erogate, eccetera, eccetera. Cosa che i mezzi classici non possono fare, la radio e la TV, ad esempio, non riescono a capire senza un sistema particolare quanti sono gli spettatori, gli ascoltatori, eccetera. Non è affatto semplice farlo per un editore o comunque un operatore. Un operatore dai propri web analytics cosiddetti capisce molte cose, talvolta anche delle indicazioni qualitative, ma alla fine comunque avrà dall'altra parte la maggior parte dei suoi visitatori che sono dei browser anonimi, cioè dei computer, non si sa chi ci sta dietro. E dietro lo schermo c'è una persona. Quindi per sapere chi sono le persone occorre comunque fare una rilevazione oggettiva fatta da una terza parte che possa appunto riconciliare questi dati. Aggiungo che per un problema tecnico anche molto complesso, però anche dibattuto molto spesso sui media, i dati che vengono catalogati e censiti da parte degli editori con sistemi, diciamo, di calcolo sui siti, cosiddetti sistemi di web analytics, sono spesso dati che tendono a non riuscire a valutare tutta una serie di fenomeni. Faccio un esempio semplice per tutti. Dalla ricerca di oggi, quindi l'estensione tablet e mobile, è emerso che ci sono circa 5 milioni di italiani che usano tutti e tre gli schermi: il PC, il tablet e lo smartphone. Magari questi stessi utenti useranno addirittura due PC diversi, perché hanno un PC da lavoro e forse uno domestico condiviso. Se per paradosso una singola persona arrivasse in un sito senza ovviamente registrarsi, ma semplicemente vedendoselo, l'editore avrebbe la percezione di avere davanti a sé quattro persone diverse. Questo è il motivo per cui occorre fare una rilevazione oggettiva terza e che abbia anche una base campionaria. Quindi voi dite, noi abbiamo la possibilità di avere un dato qualitativo, mentre l'editore riesce ad avere un dato solamente quantitativo. Sostanzialmente questo è il discorso. Sì, poi questa, diciamo, è una, come dire, non è, è sì nella gran parte dei casi, poi ovviamente il titolare di un sito, un editore o di una pagina su un social network farà di tutto e deve fare di tutto per conoscere meglio, ingaggiare i propri clienti, quindi profilarli e aggiungere delle informazioni su di loro, ma non saranno mai per tutti gli utenti, tanti utenti comunque passeranno, serveranno, saranno anche dei lettori attenti, ma comunque non lasceranno i propri dati. Sì. Allora, veniamo ai numeri. Voi avete appunto pubblicato e diffuso in settimana questi numeri che raccontano quante sono le persone che si collegano ad internet in Italia, tenendo conto appunto di anche tablet e smartphone, quindi insomma di una base che si amplia. Quanti sono? Dunque, noi abbiamo circa 25-26 milioni di utenti che si collegano via PC ogni mese ed è un dato flat o addirittura in ribasso, nel senso che comunque sta diminuendo il numero di utenti che utilizza la rete da PC. Viceversa abbiamo un'altra realtà che è quella mobile, fatta da smartphone e tablet, che sta aumentando in maniera enorme. Si pensi che l'accesso da tablet è aumentato del 160% in un anno, quindi stiamo parlando di più di 30% su base trimestrale, e quindi abbiamo un universo di che si sta completamente ridefinendo rispetto a poco tempo fa. Oggi noi calcoliamo, abbiamo fatto i primi dati assolutamente ancora non stabili, quindi sono dati beta, come si dice. Abbiamo deciso di divulgarvi proprio per cominciare la ricerca, che sarà poi operativa con i dati a regime da gennaio, e vediamo già che ci sono più di 9 milioni di utenti mese su mese, da in agosto, su smartphone, che si collegano a internet via browser o usano applicazioni collegandosi a internet attraverso di quelle, e 4 milioni circa da tablet. Sono numeri importanti, perché se si guardano anche i tempi di utilizzo si scopre che il budget complessivo, no, di utilizzo da parte di questi utenti è molto simile o ha superato addirittura i 25-26 milioni che si collegano al PC. Questo significa che oggi il time budget, quindi il consumo effettivo di questi due nuovi mezzi, è paragonabile a quello di PC o l'ha superato. Questi numeri vanno sommati, cioè i 9,2 da smartphone e i 4 milioni da tablet vanno sommati ai 23,5 da PC? No, sono numeri in questo caso relativi al singolo mezzo, e possono comunque, come dicevo prima, facevo prima l'esempio di quegli utenti che hanno addirittura i tre schermi, che dovranno essere, come dire, unificati, duplicati. Noi partiremo a gennaio con le tre, continuerà con la PC, e poi avremo le due ricerche singole, una per tablet e una per smartphone, e da aprile, quindi tre mesi dopo, avremo il dato unificato, arrivando alla cosiddetta Total Digital Audience, quindi a un unico database che ti intraccia per tutta la popolazione italiana dei comportamenti su tutti i tre device. Quindi sapremo cosa fa un individuo nel corso della giornata, saltando in continuazione fra il suo smartphone, il suo PC se ce l'ha, il suo tablet, o magari il tablet che molto spesso viene condiviso in famiglia. Sì, quindi ad oggi possiamo dire che sono, possiamo fare una stima di quanti sono in totale le persone che si collegano ad internet con una certa regolarità? Sì, noi abbiamo dati della nostra ricerca di base, 11-74 anni, abbiamo un totale di 38 milioni di collegati. I 38 milioni di collegati sono quelli che hanno, diciamo, una potenzialità d'accesso alla rete da tutti i vari sistemi, quindi siano essi PC, PC da lavoro, da tablet o smartphone. In realtà poi questi 38 milioni si ridurranno nel mese su mese di una certa percentuale, per il fatto che non tutti quelli che sono collegati effettivamente navigano, usano la mail o le applicazioni. Insomma, ci sono molti utenti che magari usano il telefono in maniera tradizionale e senza queste cose nuove. Avremo questo dato, quindi, di una deduplicazione effettiva degli utenti dal mese di marzo in poi, quando arriveremo appunto alla Total Audience. Questa intervista e anche le altre che avete ascoltato durante questa versione podcast di 2024 sono in formato integrale, quindi abbiamo lasciato tutta l'intervista solo in podcast, condensandola invece nella nostra ora di trasmissione durante la settimana. Bene, adesso concludiamo questa puntata digitale che avete scaricato, che state ascoltando in streaming, con alcune anticipazioni relative a Nova, che trovate sul Sole 24 Ore nella giornata di domenica. Ricordo che Nova è il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, guidato da Luca De Biase. Bentornato Luca 2024. Ciao a tutti. Partiamo come sempre dalla copertina. A che cosa è dedicata quella di domani? Beh, la storia di copertina è di Elena Comelli, che fa una survey di tutti i sistemi del futuro con i quali la gente si sposta in città, e ovviamente il centro della questione sono le automobili volanti, o comunque qualche cosa che potremmo chiamare così. Sono delle specie di droni con 16 pale, come degli elicotteri con 16 ruote di eliche, che si muovono nella città e alzandosi in verticale, e si coordinano tra loro con degli algoritmi complicatissimi. In effetti il centro del pezzo, oltre a raccontarci delle tecnologie più avanzate che sono studiate a Zurigo, al Max Planck di Losanna, al Politecnico di Losanna e in varie parti del pianeta, ci sono queste tematiche relative al traffico e alla gestione del traffico in un mondo nel quale le automobili non viaggiano solo sulle due dimensioni, ma sulle tre dimensioni. e il traffico, il governo di questo traffico diventerà inevitabilmente tutto automatizzato e algoritmico, per cui noi entreremo in queste macchine, daremo l'ordine della destinazione e se ne occuperanno loro di portarci a destinazione. Quindi non vi siete, diciamo, limitati a osservare il futuro più vicino delle macchine automatiche, di cui si parla molto, invece un futuro un po' più remoto, che è quello di macchine che voleranno e quindi dovrebbero risolvere parte dei problemi di traffico. Poi ci saranno, magari ci sarà il traffico in cielo e si potrà guidare tranquillamente in strada, chi lo sa. Ma guarda, a me sembra, ricorda un signore che mi raccontava che partiva contadino da Matera, dai Sassi di Matera, la mattina alle 5 con il suo asino che sapeva la strada e lo portava a destinazione. Non siamo poi così lontani, eh? Esatto. Questa settimana ci sono stati alcuni appuntamenti interessanti per quella che viene chiamata dagli esperti governance di internet, che è una cosa piuttosto complicata ma molto importante. La settimana scorsa Parisi, Stefano Parisi, che è il presidente di Confindustria Digitale, aveva anticipato anche ai nostri ascoltatori una proposta che arriva dall'Italia per tutta l'Europa per creare una sorta di Digital Compact, quindi una serie di vincoli per mettere in pratica finalmente tutte le istruzioni dell'agenda digitale europea, che poi dovrebbe essere declinata in ogni nazione. Ma non solo quello è stato un appuntamento importante a Roma, se ne è parlato anche a livello europeo all'interno del Consiglio europeo di agenda digitale, quindi di fatto di governance di internet. E poi c'è stato un appuntamento internazionale di cui si parla tutti gli anni, la Internet Governance Forum. Allora, che cosa è successo e soprattutto è venuta fuori qualche idea interessante o poco? Ma mi sembra che sia venuto fuori soprattutto il fatto che se non si riesce a mettere insieme i punti di vista non si riesce a decidere. In realtà l'esempio del Consiglio europeo è stato abbastanza chiaro. Un punto di vista come quello della Kroes, che vuole portare avanti il mercato unico delle telecomunicazioni, non è riuscito a fare passi avanti in un contesto nel quale c'erano preoccupazioni che venivano non dal mondo delle telecomunicazioni, per esempio dal mondo delle applicazioni che si sviluppano su internet e che hanno bisogno della net neutrality, un carattere intrinseco di internet che il sistema con il quale la Kroes vuole governare il nuovo mercato unico delle telecomunicazioni metterebbe in difficoltà. Quello che racconta l'IGF tutti gli anni è che la governance di internet o è multi-stakeholder o non è. In Italia il tema è stato posto correttamente. Parisi, come hai detto e ricordato, ne ha parlato lunedì con Letta e Caio e hanno scoperto, mi sembra, tutti quanti in Italia che la governance di internet non può essere separata da un'agenda di sviluppo del paese. Bene Luca, grazie per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto. Grazie. E a proposito della governance di internet, la strada è molto complicata e irta di ostacoli e il rischio è che se gli stati, se le istituzioni non si accordano per difendere soprattutto i cittadini, poi i cittadini devono in qualche modo cercare di difendersi dalle aziende che diventano sempre più grandi e sempre più voraci di dati, di informazioni, e proprio perché è difficile mettersi d'accordo su norme comuni, come dicevamo poco fa, la cosa importante è accordarsi, ma non vale solo per la governance di internet. Beh, se non ci si accorda succede quello che è successo recentemente al Parlamento europeo e ad esempio in questi giorni il Financial Times scriveva vittoria dei giganti della tecnologia sulle leggi europee. Google, Facebook e gli altri giganti della tecnologia hanno vinto un'importante battaglia contro l'Europa, quindi contro l'Unione Europea, nello sforzo di restringere tutto ciò che può essere scambiato in rete, cioè le informazioni che queste aziende possono raccogliere dai cittadini. E scrive il Financial Times che hanno ottenuto questa vittoria dopo che David Cameron ha persuaso i colleghi europei di rinviare l'introduzione di regole sulla privacy più stringenti di almeno un anno. Bene, grazie per la vostra attenzione. Questo è 2024 in versione podcast. Consigliate anche ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici, questo è importante, perché capiscano che la tecnologia, l'adozione della tecnologia può essere una svolta anche per il nostro paese. Dicevo, consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri politici di ascoltare 2024 in versione podcast. Quindi fateci anche un po' di pubblicità sui social network, su Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Bene, grazie come sempre per la vostra attenzione, per i nostri ascoltatori. Continuate a scriverci dicendoci come ci ascoltate. Sono molti, devo dire che nella classifica che stiamo facendo, che non è una classifica studiata scientificamente, ma insomma dall'accumulo di mail che ci stanno arrivando, sono, diciamo, ancora primi quelli che ci ascoltano mentre fanno sport. Poi almeno quelli che ce l'hanno comunicato, poi magari la maggior parte potrebbero ascoltarci mentre cucinano la pasta, ma non ce lo scrivono, quindi noi non lo sappiamo. Poi c'è una buona percentuale di persone che ci ascoltano in automobile o in altri mezzi di trasporto. Il treno è, diciamo, quello che viene dopo l'automobile. Pochi in aereo, almeno non mi risulta che qualcuno abbia scritto che ci ascolta in aeroplano, anche perché non è un tipico mezzo di trasporto per i pendolari, anche se c'è qualche pendolare anche sugli aerei. Bene, non ci dilunghiamo oltre e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. 2024.